Componimento ventunesimo dei Canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. A Silvia. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi. Sonavan le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto, allor che all'opere femminili intenta sedevi assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio odoroso e tu solevi così menare il giorno. Io gli studi leggiadri, talor lasciando e le sudate carte, ove il tempo mio primo e di me si spendea la miglior parte, din sui veroni del paterno ostello, porgea gli orecchi al suon della tua voce ed alla man veloce che percorrea la faticosa tela. Mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti, e quinci il mar da lungi e quindi il monte. Lingua mortal non dice quel ch'io sentiva in seno. Che pensieri soavi, che speranze, che cori, o Silvia mia! Quale allor ci apparia la vita umana e il fato? Quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e tornami a doler di mia sventura. O natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi? Tu, pria che l'erbe inaridisse il verno, da chiuso morbo, combattuta e vinta, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il core la dolce lode or delle negre chiome or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne ai dì festivi ragionavan d'amore. Anche peria fra poco la speranza mia dolce. Agli anni miei anche negaro i fati la giovanezza. Ahi, come passata sei, cara compagna dell'età mia nova, mia lacrimata speme. Questo è quel mondo? Questi i diletti, l'amor, l'opre, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme? Questa la sorte dell'umane genti? All'apparir del vero, tu, misera, cadesti, e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontano. Fine del componimento ventunesimo.